Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Tra nuovi target su tutti i cosiddetti millennials, nuovi mercati e nuovi canali digitali di promozione e distribuzione, ecco che le aziende iniziano a sperimentare nuovi format. Sono i casi simbolo che ci piace raccontarvi, raccogliendo qua e là i segnali della rivoluzione in atto nel mondo dei consumi. Oggi abbiamo scelto tre casi di altrettanti grandi aziende del mondo alimentare e della distribuzione, casi presentati in questi giorni, che vanno dall'innovazione prodotto alla comunicazione e anticipano ciascuno a suo modo le tendenze emergenti di un settore in profonda trasformazione, un settore che più di ogni altro è vicino al consumatore. Frena il valore dei brand italiani: tra i 500 più forti a livello mondiale, solo 8 sono nostri. Scopriremo quali tra pochissimo. E a proposito di branding, vi raccontiamo anche il primo caso in Italia di sponsorizzazione, pensate, di una fermata della metropolitana. Guardiamo tutti il telefonino mentre camminiamo, ecco che allora la pubblicità si adatta e da verticale diventa orizzontale, dai cartelloni ai lati delle strade alle scritte sui marciapiedi. Caso che vogliamo raccontarvi è Cucina Barilla, un'idea con cui la Casa di Parma punta a riprodurre in versione food il sistema di successo macchina del caffè più capsule o cialde. E il concetto alla base è proprio quello della ricarica. Si tratta di un forno a microonde prodotto in partnership con Whirlpool e una gamma di kit contenenti ingredienti predosati per preparare in casa cibi freschi come pane, pizza, pasta, ma anche risotti e torte. Attraverso un'etichetta intelligente con sistema RFID, il forno riconosce il kit e imposta modi e tempi di preparazione in totale autonomia. I kit, tra i 2 e i 4 euro circa, si acquisteranno online, il forno tra i 600 e i 700 euro nei canali tradizionali a partire da settembre. Un prodotto pensato per the next cooking generation, così leggiamo nel video di lancio, andatelo a vedere sulla nostra pagina Facebook. I cosiddetti millennials, dunque, la generazione Y, a caccia di innovazione, semplificazione e risparmio di tempo. Per noi è una grande innovazione, dice Guido Barilla al microfono di Michele Nardi. Il lancio di Cucina Barilla, che è questo nuovo forno rivoluzionario che cucina in modo estremamente efficiente una serie di prodotti diversi tra di loro e darà la possibilità alle persone che hanno poco tempo di cucinare di avere con un solo prodotto, uno solo elettrodomestico, chiamiamolo, la possibilità di fare molte, è per noi una grande innovazione. Noi ci abbiamo lavorato parecchi anni assieme a Whirlpool, diciamo in collaborazione tecnologica con loro, e siamo estremamente orgogliosi di questa innovazione e siamo molto anche curiosi, diciamo ansiosi, di presentarlo al mercato per valutare quali saranno le prime accettazioni. Devo dire che è una delle rare situazioni in cui si può dire che c'è una vera innovazione nel mondo dell'alimentare. Nuovi target ma anche nuovi mercati. Negli Stati Uniti Barilla ha lanciato Pronto, la pasta che si cuoce senza far bollire l'acqua, un prodotto pensato esclusivamente per il mercato americano. L'amministratore delegato del gruppo, Claudio Colzani: c'è un pacco di pasta, c'è una sola pentola in cui verserò all'incirca 750 ml d'acqua, la pongo sul fuoco con l'acqua, non c'è bisogno di farla bollire, verso la pasta e dopo 10 minuti la pasta è perfettamente al dente. Qual è il vantaggio? Una sola pentola, 10 minuti dal momento in cui accendo il fuoco, non c'è bisogno di scolarla. Quindi è convenience, quick cooking, e c'è un vantaggio in termini di risparmio energetico e di acqua importantissimo. Voi capite che per persone che hanno sempre meno tempo di cucinare e che vogliono un prodotto di qualità, quello che negli Stati Uniti viene chiamato il target dei millennials, questo è un elemento importante per diffondere l'utilizzo e la penetrazione della pasta nel mondo e in quel paese. Grazie, quello lì, posta davanti a tutti. Il biglietto gold. Oh, imbuchiamoci anche noi. Ma cosa imbuchiamoci, dai, che poi ci sgamano, dai. Te lascia farla a me, con la telefica del biglietto gol. Noi passiamo davanti a tutti, così saliamo prima e ci prendiamo i posti migliori. Gianpaolo, dai, andiamo, ragazzi, andiamo. Contento? Ai millennials pensa anche Autogrill, che con Stereo Trip, una web serie online nei prossimi giorni, racconta la storia di tre amici in partenza per una vacanza ad Ibiza. Per parlare con questa generazione il video sui social è lo strumento principe e tutti i brand devono iniziare a pensare come una media company, ci dice Christian Micheletti, cofondatore di Social Content Factory, l'agenzia creativa che ha realizzato la web serie. Sì, abbiamo prodotto, come dicevi tu, questa web serie per Autogrill, il cui titolo è Stereo Trip, con gli Zootropio, che sono degli youtubers molto famosi perché hanno avuto grande successo soprattutto con un video sugli stereotipi del calcetto. Stereo Trip riprende un po' la loro linea creativa, quindi è sottolineare gli stereotipi nelle varie situazioni quotidiane. Ne emerge uno spaccato singolare in cui ognuno può riconoscere i tic, i difetti o situazioni, insomma, che comunque con gli amici magari ha già vissuto. Certo, certo, e questo infatti è il meccanismo sia narrativo che psicologico che aiuterà poi la condivisione sul web. Il fatto di ritrovarsi all'interno di determinate situazioni, riconoscersi o riconoscere il proprio compagno di viaggio all'interno delle varie situazioni permette più facilmente la condivisione sui social network, quindi la visualizzazione organica dei contenuti, bypassando un po' anche i limiti dell'algoritmo di Facebook che sta penalizzando sempre di più i contenuti non sponsorizzati delle pagine dei brand. Quanto viene utilizzata in questo momento, quanto è richiesta, come dire, che tipo di previsione di crescita ha uno strumento come questo del branded content, comunque della produzione video per le aziende che vogliono comunicare sui social? Il mercato è in Italia molto interessante, sta subendo una crescita molto forte, noi siamo sempre di più a contatto con i brand che ci chiedono questo tipo di contenuto, se in realtà o meno, quello non è il punto è che i brand hanno capito di essere di dover essere delle media company, quindi di dover produrre contenuti. Il video è il contenuto in assoluto dominante del web, basti pensare che i dati Cisco Systems del 2014 dicono che entro il 2019 probabilmente il 72% del traffico dati sul web sarà video, molto del quale sarà anche mobile. Queste due cose portano ovviamente alla necessità di creare contenuti che ingaggino, quindi che diano intrattenimento o informazione o le due cose insieme, il famoso infotainment, ai propri utenti per riuscire così a portare più interesse nei confronti del brand. Si cerca sempre di fare più che altro brand awareness, difficilmente si riesce a fare comunicazione di prodotto, questo è abbastanza importante da sottolineare. Qual è la nuova frontiera? Penso a Periscope, penso insomma alle cose che si sono citate più di moda recentemente, su cosa state lavorando? In Italia, soprattutto per quanto riguarda il mercato che seguiamo noi, quindi principalmente, sta arrivando un po' l'onda lunga in realtà della viralità. È una viralità che è abbastanza incentrata sulle caratteristiche della comedy o di linguaggi comunque di solito divertenti, intrattenimento. Periscope è uno strumento molto interessante, bisogna dire che ancora non si è capito bene come si possa utilizzare al meglio, però ha sicuramente messo in moto un meccanismo molto interessante, perché quando qualcuno è online su Periscope e tu vedi che sta trasmettendo qualcosa live, a quel punto hai solo una decisione da prendere, o lo vedi o lo perdi, e quindi diciamo che si dice che il Periscope è il nuovo link baiting, no? Quindi quei meccanismi che ti obbligano quasi a andare a soddisfare la tua curiosità, quindi questo sicuramente è uno strumento che avrà importanza nel futuro prossimo. Italia, sì, Italia no, Italia niente, se famo tu spaghi, Italia sob, Italia brot, la terra di cachi. Il terzo caso ha a che fare invece con una catena di discount tedesca, Lidl, che ha deciso di proporre il Made in Italy agroalimentare ai milioni di clienti in tutta Europa. Durante la settimana promozionale dedicata, la linea Italiamo viene distribuita in tutti i 10.000 punti vendita presenti in 26 paesi europei. 300 prodotti che non fanno parte dell'assortimento standard, alcuni molto tipici come il pane carasau, il tomino piemontese, la tigella romagnola, i cannoli siciliani. Una linea che fattura in Europa 150 milioni di euro. Ignazio Paternò, amministratore delegato acquisti Lidl Italia. Siamo in Italia, siamo sempre più presenti in Italia, abbiamo oltre 570 punti vendita ed è arrivato il momento di soddisfare le esigenze dei nostri consumatori. Ecco che è nata la linea Italiamo, perché noi amiamo l'Italia, quindi un binomio di amore e italianità, e pensiamo che oltre all'eccellenza enogastronomica italiana abbiamo delle eccellenze enogastronomiche regionali. Tant'è vero che il marchio Italiamo è nato proprio in virtù di questo, far conoscere a tutte le regioni ciò che di buono la propria regione produce. Sono prodotti che attualmente si aggirano intorno ai 300 referenze, stiamo lavorando per aumentare queste referenze, parliamo di un export di fornitori italiani di 150 milioni di euro e siamo sicuri che è solo l'inizio di questo export, che possa diventare la Lidl Italia un trampolino di lancio per l'economia di questi grandi produttori nonché partner commerciali. Brand italiani crescono troppo poco, rischiano di farsi oscurare ulteriormente da quelli di altri paesi, Cina in testa. Tra i 500 principali brand a livello globale solo 8 sono italiani, rivela la classifica elaborata dalla società di consulenza Brand Finance, che si focalizza anche sui 50 top brand italiani. A Massimo Pizzo, Managing Director di Brand Finance Italia, abbiamo chiesto quali sono i vincenti e quali i perdenti. I brand italiani che stanno performando meglio quest'anno sono i brand italiani del gruppo Fiat e i brand del gruppo Ferrero. E mi riferisco in particolare al proprio brand Fiat, che quest'anno ha guadagnato ben 900 milioni di euro, ma è andato molto bene anche il brand Ferrari, Maserati e Alfa Romeo. Poi ci sono i brand del gruppo Ferrero, Kinder in testa, che hanno guadagnato moltissimo. Ad esempio Kinder ha guadagnato ben il 60% del proprio valore. Fiat e Ferrero, come dire, vengono premiati i brand che in questo momento hanno anche una forte strategia di comunicazione, penso all'uso dei social, penso alla presenza anche internazionale. Sì, ad esempio Fiat ha performato molto bene grazie agli investimenti che ha fatto negli scorsi anni in Nord America, perché fino a qualche anno fa Fiat praticamente era inesistente in Nord America, e soprattutto a livello social Fiat ha lavorato molto bene. Sono interessanti le performance di Ferrari, perché Ferrari per ben 2 anni è stato il brand più forte del mondo, quindi il brand miglior gestito al mondo. Quest'anno ha perso il primo posto come brand più forte del mondo, però è cresciuto in termini di valore, quindi diciamo la strategia del brand ha chiaramente pagato. Vedremo cosa succede nei prossimi anni. Chi è in sofferenza invece in questo momento in base alla vostra classifica? Sono andati maluccio sia Unicredit che Telecom. Unicredit ha sofferto molto come tutte le banche europee. Il brand Telecom Italia è andato maluccio, tanto è vero che recentemente Telecom ha annunciato che il brand team andrà a sostituire il brand Telecom diversi business. Lucia San Siro, di quella sera. Ha debuttato a Milano la prima stazione della metropolitana con lo sponsor San Siro Stadio Mediaset Premium, capolinea della linea Lilla, la linea 5. Accanto ai tradizionali spazi commerciali arriva così anche in Italia, l'idea all'estero è già stata sperimentata con successo, il cosiddetto naming, l'affiancamento del logo dello sponsor alla segnaletica ufficiale della stazione. Costo dell'operazione 180.000 euro per un anno. Con questo sistema recuperiamo risorse importanti che verranno destinate al trasporto pubblico, sottolinea l'assessore alla mobilità del Comune di Milano Pierfrancesco Maran al microfono di Nazareno Orlandi. Il trasporto pubblico si finanzia ad oggi attraverso fondi statali e attraverso biglietti e abbonamenti. Noi vogliamo fare in modo che ci siano altre fonti di entrate. Quella della sponsorizzazione è un modello che va sviluppato, quindi grazie a chi ha creduto per primo in questo sistema, abbiamo già offerte per altre due stazioni. Ci sembra un modo sobrio, perché poi mi sembra un allestimento comunque sobrio che non dà fastidio a chi magari non voleva una sponsorizzazione, ma che consente di avere risorse per il trasporto pubblico. Non ce le siamo inventate noi, nel senso che all'estero ci sono già alcuni esempi, e credo che abbiamo recepito il fatto che il trasporto pubblico inizia finalmente ad essere molto attrattivo anche per investimenti commerciali, e credo che questo sia apripista anche per altri che magari ci stavano pensando e che oggi saranno più motivati a investire nel trasporto pubblico milanese. Pochissimo, nella seconda parte continuiamo a parlare di città e pubblicità. Le Marche sono a caccia della nostra attenzione, ma l'impresa non è più così facile. Ecco che allora la comunicazione scende sull'asfalto. È tempo di street advertising. Smau ti aspetta a Bologna. 4-5 giugno, Bologna Fiere. Smau.it vi presenta Essere e Avere. La strada su cui viaggi, John Anderton, è quella meno percorsa. Assicurati che le sue storie non diano una storia che non potrai mai dimenticare. Ehi, John Anderton, scappa via da qui! John Anderton, avresti proprio bisogno di una Guinness adesso. Ogni giorno che passerai con noi sarà un giorno in più in paradiso. Ti serve una vacanza? Vieni a trasformare. Stacca la spina, John Anderton. Focus sui trend. Vi è già capitato, siete già incappati nell'ultima tendenza della street advertising, la pubblicità su strada. Sono i messaggi pubblicitari impressi sull'asfalto, sulla strada proprio o sul marciapiede, nei modi più disparati, dalla semplice scritta con logo e magari indicazione di direzione verso il punto di interesse da promuovere, si fa ad esempio con i nuovi punti vendita, alle declinazioni più creative come i graffiti 3D con effetti ottici veramente incredibili. È l'ultima frontiera della comunicazione su strada, che deve fare i conti con un passante, un pedone sempre più distratto, con gli occhi fissi sullo smartphone anche mentre cammina. Ecco che allora, complice anche il boom della street art, la pubblicità dai cartelloni ai bordi delle strade si sposta sull'asfalto. Ne parliamo con Paolo Ferrarini di Future Concept Lab. Ciao Paolo. Ciao, buongiorno. Allora, partiamo raccontando magari qualche caso. A Milano in questo periodo se ne sono visti tanti, ma ci sono anche casi molto raccontati, molto fotografati in rete. Basta digitare street advertising e ne esce un mondo. Sì, ce ne sono tantissimi. Ci sono ad esempio, non so, graffiti temporanei, graffiti permanenti, reverse graffiti, che sono i graffiti al contrario, nel senso che sono ottenuti, il messaggio si ottiene cancellando lo smog e lasciando una scritta di comunicazione, di pubblicità per terra. Diciamo che l'asfalto diventa un elemento fondamentale per la comunicazione, proprio perché la città sta tornando ad essere un polo di attrazione molto forte. Cioè, solo qualche dato: consideriamo che nel 75 solo tre città superavano i 10 milioni di abitanti, erano New York, Città del Messico e Tokyo. Oggi invece sono 21 le megalopoli e saranno 29 nel 2025, per cui nelle città a livello mondiale c'è una grandissima concentrazione di persone, per cui insomma gli occhi di queste persone devono essere attratti in qualche modo dalla pubblicità. Camminiamo molto anche guardando i nostri smartphone, guardando i nostri tablet, eccetera, per cui il nostro sguardo è molto spesso rivolto verso il basso. Che cosa conta di più? L'influenza della street art e il suo uso anche commerciale? Molti brand hanno cavalcato il filone da tempo ormai, oppure proprio l'abitudine sempre più radicata in noi di guardare in basso perché guardiamo il telefonino, appunto? Guarda, possiamo dire che entrambe le cose si mescolano e trasformano la città in una piattaforma di comunicazione, per cui ogni superficie cittadina può diventare degna di essere una base sulla quale mettere della comunicazione. Quindi per questo, sia che guardiamo a terra, sia che guardiamo i muri, sia che guardiamo anche magari un palazzo all'orizzonte, il graffito, l'intervento di comunicazione deve comunque in qualche modo catturare, attrarre Una questione fondamentale è proprio quella dell'attrazione magnetica, no? Ad esempio in Future Concept Lab parliamo molto di magnetismo della comunicazione, per cui non ci deve essere semplicemente un'occupazione di uno spazio, ci deve essere anche un'attrazione, deve essere qualcosa di interessante, qualcosa di divertente, qualcosa di, usiamo un termine nuovo, instagrammabile, qualcosa che valga la pena di condividere. Ecco che l'arte, in questo caso i graffiti, diventano sicuramente un trigger, un elemento di attrazione molto importante, oppure l'inaspettato, il fatto di trovarsi una comunicazione magari dove non te l'aspetti, quello può diventare un altro elemento di grande attrazione. Quindi diciamo che ogni superficie della città può diventare una base di comunicazione. Ci sono casi che hanno fatto più notizia di altri? Sì, beh, sicuramente un caso molto interessante arriva dal Paraguay. Il Paraguay ha perso l'80% delle sue foreste negli ultimi anni, per cui anche è un caso di cui si parla molto spesso quando si parla di surriscaldamento, di global warming. Ecco che il WWF ha fatto una performance molto interessante, ha invitato un famoso chef a cucinare per terra, per strada, a cucinare sull'asfalto, ma attenzione, non ha usato fornelli, ha usato semplicemente il calore generato dall'asfalto, visto che la temperatura delle città del Paraguay è cresciuta tantissimo, ha voluto proprio dimostrare che l'asfalto è diventato talmente caldo che ci si può cucinare, ha preparato un menù completo, per cui è diventato, chiaramente i passanti erano molto incuriositi, hanno fatto moltissime fotografie, per cui insomma questo messaggio, se vogliamo sociale, comunque una campagna a sfondo ecologista, ha avuto un grandissimo successo e hanno usato la strada letteralmente come piattaforma di comunicazione, in questo caso addirittura per una vera e propria performance. Mi viene in mente l'India di questi giorni in cui l'asfalto è deformato, le strisce pedonali sono modificate ovviamente per la fortissima ondata di caldo, anche lì insomma l'allarme, esatto, per il surriscaldamento. Un altro caso invece che è nostro, è più locale, è quello di William Kentridge, che a Roma con il progetto Tevere Eterno, progetto di realizzare questi reverse graffiti, quindi pulendo la sporcizia, insomma i segni del tempo sulle banchine del Tevere, otterrà questa opera d'arte urbana che è la più grande che l'artista sudafricano mai realizzato nella sua carriera. Questa opera è stata anche presentata alla Biennale di Venezia di questi giorni, quindi insomma anche un'aura di ufficialità molto interessante. Quindi si tratta in questo caso di un progetto di comunicazione urbana più che di comunicazione pubblicitaria, però sicuramente molto interessante come vengono utilizzate a fini di comunicazione, a fine di arricchimento della città, proprio le superfici della città, dimenticandoci dei tradizionali tabelloni pubblicitari o dei tradizionali monitor. Una riflessione finale, Paolo: quando si parla di pubblicità su strada, l'abbiamo messa come clip iniziale, viene sempre in mente l'immagine cult di Minority Report, in cui appunto il protagonista passeggia e le inserzioni pubblicitarie lo riconoscono e quindi si propongono a lui in modo molto personalizzato. Però per dire, insomma, negli anni futuri sarà una bella sfida quella che affronterà la pubblicità su strada, cioè catturare l'attenzione non è più così facile. Assolutamente, pensa che sono stati fatti negli anni scorsi, soprattutto negli Stati Uniti, degli esperimenti proprio stile Minority Report. C'erano dei tabelloni che all'interno avevano delle microcamere che osservavano i comportamenti delle persone che passavano per strada, quindi se si fermavano a guardarle, per quanto tempo lo guardavano, dove guardavano, eccetera. Abbiamo in tutti i nostri computer e nella maggior parte dei nostri telefoni abbiamo dei software di riconoscimento facciale, una telecamera frontale, quindi è una cosa, è una tecnologia abbastanza comune. Le proteste da parte delle persone sono talmente alte che si sono dovuti abbandonare questi esperimenti di comunicazione. In realtà diventa molto più interessante anche per le aziende che vogliono promuovere della comunicazione, stimolare, attrarre le persone attraverso delle cose belle, usiamo una parola molto semplice, però è così, cioè delle cose che siano interessanti, che siano divertenti, che siano interessanti da condividere con gli amici. Ecco, quando diventa troppo invasivo viene comunque rifiutato il messaggio pubblicitario e viene anche facilmente criticato. Paolo Ferrarini, grazie, alla prossima. Grazie, a presto. Il consumautore. Di settimana in settimana raccontiamo le trasformazioni del mondo dei consumi. Al centro c'è il consumautore, che ha parametri tutti nuovi di selezione e scelta dei prodotti perché ha abitudini tutte nuove di vita, nuove sensibilità, ci aiuta a decifrarle come sempre. Francesco Morace, ben trovato Francesco. Buongiorno a tutti, a te Maria Luisa e a Radio Ascoltatori. Oggi, me lo hai anticipato, parliamo di un tema legato alla sfera sentimentale. Sì, perché il consumautore non è solo un nuovo consumatore, ma è un soggetto che decide, sceglie in modo nuovo i propri, diciamo, progetti di vita, e quindi le nuove coppie sono oggi al centro di una grande attenzione anche per il marketing e per le aziende, perché vanno in una direzione opposta a quella che si era immaginata qualche tempo fa. Per 20 anni abbiamo immaginato il single come figura di riferimento anche della modernità avanzata. Oggi scopriamo che a giovanissimi, quindi a un'età molto giovane, i ragazzi sperimentano in termini sentimentali e quindi evidentemente cambiano il proprio partner, anche più di uno, perché hanno tante occasioni, però poi intorno ai 20 anni sono molto più fedeli e concentrati su un progetto di coppia che viene rispettato da entrambi, e in questo devo dire che il mondo femminile è sicuramente più avanzato di quello maschile. Come cambia l'offerta delle aziende in questo e le modalità della comunicazione, penso in questo caso ai creativi, a chi deve occuparsi poi del messaggio al consumatore? Certo, quello che è completamente saltato è il ruolo della responsabile acquisti. Uso il femminile perché sappiamo come nella stragrande maggioranza dei settori fosse comunque la madre, la moglie a scegliere per tutta la famiglia o per il marito. Questo oggi è veramente saltato. E anche in quei settori, penso alle auto ad esempio, in cui spesso si delegava in questo caso all'uomo, al maschio, il compito di scegliere o di dire l'ultima parola, oggi vediamo invece che sono le coppie che insieme prendono queste decisioni. Il mondo pubblicitario lo ha capito: se pensate alla stragrande maggioranza delle campagne di auto, troviamo coppie, famiglie e mai l'uomo che da solo valuta ad esempio la potenza di un'auto. Quindi in questa dinamica il mondo femminile è più avanti rispetto a quello maschile, il più mondo di riferimento. Sì, il mondo femminile più avanti, tra l'altro un riferimento cinematografico, un bel film presentato al Festival di Cannes, si chiama L'ombre des femmes di Philippe Garrel, ed è proprio la storia di una coppia che si lascia, si ritrova, e in cui è assolutamente lei che dimostra una maggiore autenticità nella relazione sentimentale, ma anche capacità di ricostruzione. Quindi è il mondo femminile che ancora una volta detta le nuove regole del mondo sentimentale. Grazie, a domenica prossima. Grazie a te. E grazie anche in regia a Paolo Corleoni. Essere Avere finisce qui. Pagina Facebook per tutti i contributi aggiuntivi, pagina programmi di Radio 24 per riascoltare e scaricare questa e tutte le altre puntate, in attesa di risentirci come sempre domenica prossima alle 15. Non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.